Allora, torniamo in diretta qui dai microfoni di Città del Capo, Radio Metropolitana, con questo special di domenica sera, questa domenica sera, in compagnia di Gino Dal Soler e di 451 frammenti sonori. Adesso siamo già nel vostro spazio, per cui ma noi fondiamo qua, no? Stiamo fondendo queste due trasmissioni, ormai perdiamo l'identità, che può essere solo che positivo, grazie anche a queste musiche molto psichedeliche. Concordo. Sì, sulla disidentità felice, come diceva un amico tanti anni fa. Crea un bel flusso. Ebbene, allora ci lanciamo anche i desideri a questo punto. No? Ci continuiamo a disidentificare con queste musiche molto acide e psichedeliche. Prima abbiamo parlato della Cranky e di questa nuova uscita, Ken Camden, molto molto intrigante e interessante, che ci ha portato in anteprima Gino. E adesso ci ascoltiamo un'altra anteprima, perché è appena uscita anche questo. White Rainbow è uno dei gruppi di punta della Cranky, è un altro gruppo di psichedelia pura, e ha fatto uscire un nuovo lavoro dal titolo molto eloquente, Boring Guitar Music, musica noiosa per chitarra. In realtà, secondo parere personalissimo, non è proprio noiosa, sì, è un po' monocorde, ma è fatta apposta per trance ipnotica, e dunque va bene così. Anzi, viene citato direttamente un mito degli anni 70, che è Manuel Goching, con un paio di brani di drone per chitarra elettrificata e con echi, molto simile. Noi ci ascoltiamo invece una cosa un po' più acida, un po' più hard, molto cattiva, fatta tutta di chitarre elettriche sovrapposte e distorte. Anzi, possiamo annunciare per i fan, che lo dicevamo prima a microfoni spenti, ma Manuel Goching sarà appunto per un concerto alla Villetta a Parigi, se qualcuno vi invoglia di fare un viaggio fin su, il 2 giugno prossimo. Ed è una rarità, perché Manuel Goching è uno che ormai non suona più dal vivo da molti anni, e stanarlo è veramente un bel problema. Chissà se farà le stesse cose di 30 anni fa. Ma sarei curioso anch'io. Ma vedremo. Intanto White Rainbow, quello è 2010. Thank you. Bene, ci è sfuggito quasi dalle mani White Rainbows ed è entrato violentemente Acre. Allora a questo punto mi tocca parlarne, anche se abbiamo già pronto un'altra cosa, perché stiamo entrando nelle pieghe più oscure dei drone. Ormai la notte avanza e l'oscurità avanza anche in questa puntata di 451 e altri suoni, con suoni sempre più dark, sempre più oscuri, sempre più criptici. Già questo Acre ha un titolo che è un programma, Isolationist, dunque musica. Una volta esisteva la musica isolazionista? Certo. Come la so? Sì, sì. Anche bella, tra l'altro. Cosa molto bella. Uscì un doppio CD che si chiamava Isolationism, sì, proprio. Sì. Anche se poi appartenevano in quella corrente, chiamavano così, gruppi che poi dopo hanno fatto, tipo Tortoise, si erano detto con la compilation, che poi all'inizio, insomma, in effetti Scuretti era. C'erano i Disco Inferno, che erano un gruppo strepitoso che veramente poco valutati per la loro qualità, e poi c'erano i meravigliosi dischi di O'Rourke del periodo isolazionista. Anche Thomas Koehner era considerato un isolazionista, il grande Thomas Koehner, che non ci sarebbe stato per niente male in una serata droning. Non ci sta poi tutto, dovremmo trasmettere fino a domattina, probabilmente fino a domattina alle 7. Comunque ascoltiamo un assaggino di questo Acre, giusto per entrare in questo sempre più ipnotica, sempre più oscuri pulsioni sonore. A questo punto abbiamo messo da parte sia gli strumenti acustici che quelli elettrici e andiamo direttamente con le pulsioni elettroniche, perché da qui in poi credo che sarà tutto più o meno sintetico. Più o meno. E ascoltiamo allora Acre Isolationist. E beh, qui ci stiamo addentrando, diciamo così, nel campo della pura frequenza, e con un personaggio tra l'altro piuttosto controverso, di cui si sta parlando abbastanza proprio in questo periodo. Un personaggio che si fa chiamare Elè, scritto E-L-E-H, e non si sa altro, nel senso che l'identità è davvero ben celata. Non si fa intervistare, non esistono fotografie, circolano solo sospetti praticamente. E qualche lingua maligna mi ha suggerito, ma chiaramente da prendere con beneficio di inventario, che potrebbe, lo diciamo noi, tanto non ci sentono oltreoceano, almeno penso, e che potrebbe essere il patron della Important Records, che sotto mentite spoglie incide con questa sigla. In realtà il sospetto è abbastanza, come dire, probabile, nella misura in cui, guarda caso, la maggior parte delle uscite, quasi tutte in vinile, sono proprio su etichetta Important, e il fatto che non sia possibile intervistarla o intervistarlo, perché c'è stato un po' l'equivoco anche sull'identità di genere, no? Elè, donna, uomo, e tutti un po' ci giocano. Anche sull'ultimo The Wire c'era una paginetta, chiaramente non un'intervista e non una fotografia, ma semplicemente dei flash intorno, perché comunque almeno una dozzina di dischi sono usciti, e l'ultimo di questi, il primo in CD, che ha per titolo Location Momentum, è uscito su Touch, quindi un'etichetta abbastanza storica. Dunque anche abbastanza rintracciabile. È anche abbastanza rintracciabile, i vinili ovviamente sono esauritissimi, per cui salvo qualche ristampa che probabilmente magari verrà fatta, al momento si tratta di tirature. Per esempio io ne ho qui sotto mano uno che ha per titolo Floating Frequency Intuitive Synthesis, e i titoli sono abbastanza esplicativi, perché dice Tone Phase for Guitar Oscillator, praticamente è tutto un gioco di oscillatori, di sine waves, di frequenze, e l'ispirazione è, diciamo, abbastanza esplicita, fa riferimento alla Monty Young dei Drift Studies, queste composizioni che erano appunto fatte di pure frequenze, quindi senza armoniche, senza, diciamo, senza altra strumentazione, insomma. L'unico disco credo che reperibile di Lamonte in questa direzione fu il Dream House, dove una facciata intera era appunto per questa onda sinusoide che andava avanti per 38 minuti, e lei in qualche modo si rifà a quel percorso. Diciamo, c'è chi ne è rimasto abbastanza affascinato. Il dubbio che sorge verso gli adepti lamonteghiani, chiamiamoli così, insomma, o gli adepti, come dicevamo prima, della memoria storica, è quello che ci è o ci fa, insomma, no? Cioè, perché un personaggio che in capo due anni ti fa uscire 12 dischi più o meno uguali, con minime variazioni, giocando sempre, in realtà rischia di essere più affascinante proprio per l'identità celata che non per la riuscita del suono in sé. Anche perché, se vogliamo, forse appunto per quello che hai citato, non c'è proprio nulla di nuovissimo. Non c'è assolutamente nulla di nuovo, diciamo che rinverdisce un percorso storico, riattualizzandolo, riportandolo al qui ed ora, e quindi creando nuove suggestioni probabilmente in ascoltatori che magari sono poco avvezzi al vecchio Lamonte, che magari si avvicinano a Lamonte, guarda caso, attraverso queste cose, insomma. E però, insomma, al di là di questa perplessità e di questo dubbio, rimane comunque anche il fascino e il coraggio per cui un musicista tira fuori una dozzina di vinili, fregandosene altamente di pure frequenze, del loro possibile successo. Esatto. Anzi, direi che il successo in qualche modo c'è stato, saranno state anche tirature limitate, ma sta di fatto che vanno a ruba. Se ne è parlato sicuramente. Allora, una piccola anteprima di questo nuovo Elè. Qui mi verrebbe da dire, sarebbe d'obbligo l'uso della cuffia, o perlomeno di un ascolto attento, perché se lo ascoltate con la radiolina lì, dite, ma forse si è rotta la radio, per cui vedete un po' voi. Thank you. da un po' che qualche minuto che stiamo ascoltando Gilead adesso in sottofondo. Beh, è uno dei lavori sicuramente più affascinanti per quanto riguarda la cultura ex industriale che si è data appunto a quel territorio sconfinato della drone music, The Ocean of Infinite Being. È uno dei punti di diamante sicuramente di quel ritorno al drone degli anni 90. Gilead poi userà sempre più il circuito chiuso, però diciamo che il circuito chiuso poi diventerà anche un dato di fatto per la sua produzione, visto che da tanto manca, diciamo, il suo estremismo sonoro, seppur il suo estremismo produttivo, seppur appunto a livello sonoro stiamo sentendo c'è una certa comunicazionabilità, mettiamola così, e invece diventerà appunto negli anni zero poi di fatto una chiusura a tutti gli effetti delle sue produzioni musicali, rinvendendo quindi un vecchio Gilead, metà anni 90, andiamo a prendere questo oceano di essere espanso che veramente porta lontano con la mente. Thank you. Bene, andiamo sempre più nello sperimentale con questi suoni sempre molto rotondi, con una novità assoluta che è la sorpresa che ci ha portato Gino. Ma una novità assoluta più che altro è una... diciamo che per gli esperti, per gli appassionati magari non è una novità, perché in realtà in rete cercandolo un po' il disco si trova, insomma. E però è vero che non ha mai avuto, ne parlavamo prima con Max a microfono spento, un'ufficialità come quasi tutte le opere di Lamont Young. In questo caso non stiamo parlando di Lamont Young, ma stiamo parlando di un suo discepolo, anzi di una sua discepola, trattandosi di Catherine Christer Hendricks. Un po' di introduzione storica vale la pena, perché il personaggio la merita. E, svedese del 48, quindi insomma non giovanissimo sicuramente, che però nel 69 se ne va dalla propria terra patria, chiamiamola così, e finisce a New York, entra nel giro del kitchen, quindi conosce Lamont Young, diventa discepolo di Lamont Young. Io non so esattamente come e quando Christer Hendricks sia diventato Catherine Hendricks. Sta di fatto che comunque una figura transgender, oggi donna a tutti gli effetti, un po' come Wendy Carlos, che una volta era Walter. E però ecco, non chiedetemi troppo, perché anche qui un po' di elusività c'è, insomma, nella biografia del personaggio, che però oltre musicista è pittore, matematico, quindi insomma ci sono anche prospettive del tutto scientifiche dentro la sua progettualità sonora, che sono anche abbastanza direi intriganti quantomeno. La cosa invece che colpisce è che, un po' come Lamont, questi personaggi custodiscono fin troppo gelosamente la propria musica. E quindi, pur avendo composto parecchie cose questo Hendricks nel tempo, di fatto non è mai uscito nulla. Ora la Die Schachtel nostra, tra l'altro di Milano, farà uscire questo Electric Harpsichord, che è una composizione che gli appassionati di minimalismo storico considerano tra le fondamentali, insomma, al pari di quelle storiche di Lamont, di Riley, di Flint. Perché? Perché c'era tutta una storia dietro, venne presentato nel 76 dal vivo a Stoccolma e poi mai più. E mai più perché Hendricks è un personaggio del tutto pignolo, come tanti matematici lo sono. Per cui dice no, la strumentazione che lui aveva usato, che erano poi delle tastiere Yamaha semplici e poi delle onde sinusoidali, non avevano risposto abbastanza efficacemente a quella che secondo lui doveva essere la risposta live del progetto. E quindi cosa successe? Che praticamente, deluso dall'esperienza, decise di non riproporre mai più dal vivo questo Electric Harpsichord. Ne circolarono delle registrazioni e probabilmente quella che abbiamo in sottofondo è una di queste che sono state fatte, perché comunque ne sono state fatte alcune, e che la Die Schachtel adesso appunto farà uscire. Dunque non è una riedizione nuova, cioè rivisitata da adesso? E questo io ancora non lo so, perché non ho quello che ho, una cosiddetta rough copy, no? Una copia grezza in mano, non ho ancora il definitivo e sono molto curioso di capire, perché la composizione è brevissima, sono solo 26 minuti e quindi non so se c'è dell'altro in più dentro. Ci sono comunque parecchie note che raccontano, diciamo, la genesi del progetto. Quel che vale la pena di dire invece è che alla base della ricerca, diciamo, musicale di Hendricks c'è non solo l'esperienza, diciamo, come discepola di Lamont Young, ma anche e soprattutto del Pan di Pranat, perché nel 70, dopo aver conosciuto Lamont, Lamont, diciamo, presenta a Hendricks il Pan di Pranat, del quale appunto Hendricks diventa una delle più fervide discepole, tant'è vero che le famose tamburas del Pan di Pranat ce le ha lei. E infatti prima di questa registrazione era possibile sentire delle cose sue su un disco di Henry Flint che si chiamava Sea Tune, che forse i nostri 451 conoscono, e che era un disco appunto di hillbilly raga, come lo potremmo definire, dove appunto questi suoni delle tambure, che erano appunto dei droni che andavano all'infinito, erano le tamburas. Io mi chiedevo, ma come, cosa vuol dire tamburas del Pandit Paraná? No, sono proprio esattamente le tamburas, quelle proprio fisiche, che il Pandit ha probabilmente dato in custodia prima della sua morte alla Hennix, che ora le detiene, e presumo anche abbastanza gelosamente. Questa composizione invece è tutta elettronica, anche se l'elemento raga è comunque presente nello, come dire, nel DNA, nel suo tessuto, diciamo, sonoro, ma è interamente elettronica, perché comunque la Hennix ha lavorato molto con gli algoritmi matematici, insomma ha sfruttato un po' anche la sua esperienza da scienziato oltre che da musicista. Sarebbe bello capire cosa succederà anche di quello che lui ha fatto dopo, perché per esempio esistono delle composizioni sue addirittura per oboe e sine waves, che sarebbe veramente interessante e curioso ascoltare. Ma potrebbe succedere una cosa come quella a Charlemagne Palestine, magari l'auguriamo, fino a qualche anno fa non si trovavano dischi. No, ma infatti noi ci auguriamo che attraverso questo Electric Harpsichord, che comunque è una composizione abbastanza storica, e magari si apra una via che conduce poi alla scoperta di altri gioielli. Noi sappiamo che la Hennix, mi è stato confidato, ha un casino di materiale non solo suo, ma addirittura cose fatte con la Monte, col Pandit Paraná, che ovviamente per adesso non possono uscire, perché quando c'è di mezzo la Monte, si sa, non si può mai far uscire nulla senza la sua autorizzazione. Quindi se sarà un buon auspicio lo vedremo, insomma. Va bene, allora ascoltiamo un po' di questo raga elettronico di Hennix. Electric Harpsichord, infatti è curioso anche il titolo che ha dato a questo, il clavicembalo elettrico. Thank you. Beh, abbiamo parlato tanto del diavolo che a questo punto tanto vale farlo ascoltare. Ma non dovevi fare la domanda tu, Max. No, volevo. Ma intanto chi abbiamo in sottofondo? Il diavolo. Il diavolo chi è? Chi può essere il diavolo? La Monte Young e Charles Curtis, in questo caso l'esecutore al violoncello. È un'opera appunto chiamata Charles and Cello Romantic in the Chord, è un bootleg parigino del 2003, uno dei tanti bootleg appunto noi andiamo a recuperare, spesso l'abbiamo inserito anche all'interno di 451, almeno un paio di volte. Un capolavoro assoluto, un doppio CD, tracce che ovviamente proseguono nel nulla, potremmo dire, sonoro, e durano parecchio, e dovremo ovviamente prendere un piccolissimo frammento dato che il GR poi aleggia nell'aria, dunque tra poco ripartirà il GR di Radio Popolare, ma c'è la domanda che incombe, e non è nemmeno completo, perché io c'ero alla performance parigina di quel Charles, ce l'avevi detto infatti quando ci siamo incontrati, che non è una versione perché dura tre ore e mezza la composizione durò. Charles Curtis da solo con sto cello e queste onde sinusoidali, fu una esperienza veramente religiosa, laicamente parlando, e in questo piccolo teatro del centro di Parigi, un'esperienza veramente incredibile. Stringiamo, ma la domanda sì, non riusciamo a farla, sì, anche perché stiamo per salutare Gino che tornerà nel nulla da cui ma è dai, venuto. Ci torneremo qui, dai, ne faremo ancora altre. Bravo. Torneremo ancora, faremo una seconda puntata, lo prendiamo come impegno, ma eh? Sì, bravo. Dai, sì, sì, in diretta poi non lo possiamo fare, non puoi lo possiamo neanche fare. Gino, bene. E la domanda qual era? Eh beh, no, c'è poco tempo, la lasciamo per la prossima volta. Lungo, va bene. No, cosa stai facendo, Gino? Dici un po', da oltre che Blow Up. Ascolto molto, scrivo, ascolto. Mediti con queste musiche? Ma ultimamente sono anche, come dire, un po' più nervoso del solito. Del resto c'è di che esserlo. Assolutamente. No. Non sei sibillino, secondo me. Non possiamo dire nulla di più. Dicono, no? Sì, perdiamoci solo in questi droni di La Monte Young e poi vedremo quello che succede. Grazie, Gino. Buonanotte a tutti. Grazie, grazie a voi per avermi invitato. Grazie. E ci si vede presto. Assolutamente. Benissimo, ciao.